Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. In giornata primi interrogatori nell'inchiesta sulla protezione civile, sondaggio sul nostro sito, Bertolaso non si deve dimettere. Il PIL italiano scende di quasi il 5% nel 2009, dato peggiore dal 1971. Nevicata a Roma, chiude Ciampino, traffico in tilt, difficoltà anche in Sardegna. Allarme cervelli in fuga, dal 2000 al 2010 sono stati 3.000 all'anno, un talento italiano, intanto vince il premio più prestigioso del fotogiornalismo. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione. Inizieranno oggi, come dicevamo nei titoli, anzi stanno iniziando proprio in questi minuti, i primi interrogatori per l'inchiesta partita da Firenze sulla protezione civile e i servizi. La neve caduta su Roma ha ritardato l'inizio degli interrogatori di 3 dei 4 arrestati nell'inchiesta sugli appalti per le grandi opere. Angelo Balducci, Mauro Della Giovanpaola e l'imprenditore Diego Anemone, tutti detenuti a Regina Coeli, saranno comunque ascoltati in giornata dal GIP fiorentino Rosario Lupo, rimasto bloccato in auto alle porte della capitale a causa del maltempo. I tre potrebbero avvalersi della facoltà di non rispondere, così come il quarto arrestato, Fabio De Santis, successore di Balducci come responsabile dei lavori per il G8 della Maddalena, che sarà ascoltato anche lui oggi, ma per rogatoria a Milano. Gli inquirenti stanno anche esaminando i documenti sequestrati nelle perquisizioni. Nelle prossime ore poi una parte dell'inchiesta sarà trasferita a Roma per competenza. Sono già a Perugia invece gli atti di un terzo troncone, quello che riguarda il procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, indagato per rivelazione di segreto d'ufficio. Si difende dalle accuse intanto Guido Bertolaso: sono stato tradito ma non lascerò, fa sapere il capo della protezione civile, che nega di aver preso soldi e di aver frequentato escort. Quelle ragazze mi facevano solo massaggi antistress, dice Bertolaso. Andrea Viali, GR24, il sole 24 ore, Roma. I pilastri che reggono il sistema gelatinoso, come lo definisce il giudice per le indagini preliminari Rosario Lupo, sono funzionari pubblici, imprenditori privati e grandi eventi che la protezione civile gestisce direttamente. Gli interessi si intrecciano sul G8 alla Maddalena, sui mondiali di nuoto del 2009 a Roma e sul 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Diego Anemone, arrestato, è un imprenditore romano e 6 società a lui riconducibili sono coinvolte nell'inchiesta partita da Firenze. Dalle intercettazioni si capisce come Anemone abbia cercato di ingraziarsi i vertici della protezione civile, fra cui Guido Bertolaso, per aggiudicarsi diversi appalti riguardanti i grandi eventi, gestiti direttamente da 3 persone: Angelo Balducci, arrestato, direttore del Dipartimento Sviluppo e Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio; Fabio De Santis, arrestato, soggetto attuatore per le opere del G8 alla Maddalena e provveditore alle opere pubbliche della Toscana; l'ultimo è Mauro Della Giovanpaola, anch'esso arrestato, funzionario del Dipartimento guidato da Balducci e responsabile del controllo sui cantieri alla Maddalena. I contatti fra i 4 sono molto frequenti, parlano di feste e soldi. Il reato contestato è il concorso in corruzione propria continuata. Su Guido Bertolaso i PM ipotizzano un presunto passaggio di denaro da un imprenditore, una tangente su cui si cerca riscontro attraverso i conti correnti bancari. Stefano Totoro, GR24, il sole 24 ore. A questo, in particolare alle dimissioni di Bertolaso, era dedicato il nostro sondaggio di oggi. Nonostante le intercettazioni sui giornali, le accuse, l'ipotesi di avere goduto di prestazioni sessuali in cambio di favori, Guido Bertolaso, secondo la maggioranza dei nostri ascoltatori, non deve lasciare la protezione civile. Il 59% di voi, e sono arrivati più di 4.000 voti, dice rimanga al suo posto. Evidentemente la sua immagine di risolutore di emergenze ispira fiducia. Anche a Stefania Pezzopane, presidente della provincia dell'Aquila, che invita però Bertolaso a fare chiarezza. Così. Mi auguro che possa dimostrare rapidamente la sua innocenza, mi auguro che in queste ore racconti punto per punto, chiarendo tutti gli aspetti, e che fornisca subito, se le ha, le prove della sua innocenza, ancor prima che al giudice e all'opinione pubblica. Bianco o Nero torna lunedì mattina alle 8.30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, il sole 24 ore. Un'altra inchiesta sulla corruzione arriva da Milano e riguarda un consigliere comunale. Ci colleghiamo in diretta con gli aggiornamenti con Raffaella Calandra. Raffaella. È solo un episodio di un sistema più diffuso, quanto spesso è ancora in una logica di scambi di tangenti e favori che vengono prese piccole grandi decisioni? E questo è il solco investigativo all'interno del quale si muoverà l'inchiesta della Procura di Milano, che ha portato all'arresto in flagranza di reato di Mirko Pennisi, consigliere comunale del PDL, presidente ora dimissionario della commissione urbanistica del comune. Davanti alle immagini che lo immortalavano mentre ieri prendeva in piazza dello Scala 5.000 euro, Pennisi ha confessato nel lungo interrogatorio finito stanotte alle 2. Si trattava della seconda tranche di una tangente da 10.000 euro chiesta all'imprenditore Mario Basso per sbloccare una pratica edilizia nella zona della Bovisa. Questa mattina alle 3 p.m. Pedio, Siciliano e Pradella stanno scrivendo la richiesta di convalida del fermo per concussione che dovrebbe avvenire sabato. Nel 2009 34 sono state le persone indagate per concussione, 86 invece per corruzione, 10 in più dell'anno precedente. Simone. E grazie Raffaella per questi aggiornamenti. Un'altra vicenda di presunta corruzione arriva invece da Vercelli. L'arresto per concussione del presidente della provincia, Renzo Masoero, ha avuto a Vercelli l'effetto di un fulmine a ciel sereno. Masoero, noto esponente del PDL eletto nel 2002 alla guida di una giunta di centrodestra e confermato nel 2007 con il 67% dei consensi, è stato posto agli arresti domiciliari per una vicenda su cui la procura di Vercelli continua a mantenere uno strettissimo riserbo. Si parla di un imprenditore a cui Masoero avrebbe richiesto soldi per la sua campagna in vista delle prossime regionali, ma la notizia non ha trovato conferma. Il vicepresidente della provincia, Paolo Tiramani. Sicuramente c'è stupore e sgomento per l'incredulità da parte di molti della notizia, e quello di cui siamo convinti è che è una vicenda ancora nebulosa. Da come lo posso conoscere io, è sempre stata la persona corretta. Intanto i magistrati, il procuratore capo Giorgio Vitari e il sostituto Antonella Barbera, hanno ascoltato nella serata di ieri e nella notte numerose persone informate sui fatti, dipendenti della provincia ma anche funzionari del comune di Livorno Ferraris, di cui Masoero è il primo cittadino. Paolo Piacenza, GR24, Il Sole 24 Ore. Cervelli e giovani talenti in fuga. Oltre 30.000 italiani tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato il nostro paese ogni anno tra il 2000 e il 2010. Lo rivela la nostra trasmissione Giovani Talenti, in onda domani alle 15. Sentiamo. È un esodo dai numeri consistenti e che non va assolutamente sottovalutato. Negli ultimi 10 anni, secondo dati forniti dall'anagrafe italiani residenti all'estero al programma Giovani Talenti di Radio 24, oltre 316.000 giovani italiani tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato lo stivale. Si tratta di un flusso migratorio superiore alle 30.000 unità annue. I dati dell'AIRE si fermano purtroppo qui. Non specificano che tipo di professione questi under 40 svolgano, qual è la loro istruzione, soprattutto perché abbiano deciso di lasciare il nostro paese. È facile però desumere come molti di loro abbiano fatto questa scelta non perché ammalati di esterofilia, ma per cercare all'estero quelle opportunità di realizzazione professionale che l'Italia troppo spesso non concede ai propri giovani. Le statistiche dell'AIRE segnalano come l'immigrazione degli under 40 sia un fenomeno in corso già dalla scorsa decade. Tra il 90 e il 99 sono emigrati in oltre 305.000. A questo fa da contraltare una scarsa propensione del sistema Italia ad attrarre i giovani talenti stranieri, come documentato da numerosi studi. Una delle capitali dell'espatrio dei giovani italiani resta Barcellona, dove siamo la prima comunità straniera. Nel capoluogo catalano e provincia, gli under 40 nati in Italia sono oltre 3.600 su un totale di oltre 23.500 connazionali. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore. E parliamo adesso proprio di un talento italiano, perché è di un italiano la foto più bella del 2009. Uno scatto di Pietro Masturzo sulle proteste in Iran ha vinto il World Press Photo 2009. L'autore sarà premiato durante una cerimonia ad Amsterdam il 2 maggio prossimo. Adriana Fracchia lo ha intervistato proprio poco fa. Non ci credo, ancora non ci credo. Veramente non ho parole. Cioè, mi sveglio stamattina, a Roma nevica, che nevica da un tempo memore praticamente. Mi telefono e mi dicono che ha vinto il World Press Photo. E io sono rimasto veramente, mi devo ancora svegliare, non me lo so per niente, insomma, quindi sono veramente emozionato e contentissimo. Retroscena di questa foto. Sì, ero in Iran, ero insomma andato per documentare l'Iran a 30 anni dalla rivoluzione e nel momento delle elezioni presidenziali. E quello che sarebbe successo poi naturalmente nessuno poteva immaginarlo. Ho avuto diversi problemi, sono stato arrestato qualche giorno prima delle elezioni, quindi ho perso molto materiale. Era insomma psicologicamente difficile continuare a lavorare in quella situazione, scattare foto era praticamente impossibile. Dopo l'elezione ho cominciato a sentire queste voci che venivano dai tetti, mi ho chiesto subito insomma che cosa stesse succedendo e mi hanno spiegato tutta la storia della protesta sui tetti, il richiamo alle proteste nel 79, insomma durante la rivoluzione islamica, e quindi ho fatto una corsa su questi tetti perché ero ospite di studenti, di diversi ragazzi iraniani. Sono salito là, è stata un'emozione grandissima e ho cominciato subito, ho detto io questa storia la devo raccontare così, cioè in questi giorni in Iran, anche perché parliamoci chiaramente, insomma era l'unico modo che vedevo possibile di raccontare, e quindi ho cominciato a scattare sui tetti queste proteste che per me erano insomma una cosa incredibile, emozionante per me, ma per loro vedevo che era una cosa importante, insomma che sentivano tantissimo paura, tanta paura di essere fotografati, anche perché per essere riconosciuti si può immaginare il terrore seminato dal governo, quindi apparire in fotografia per loro era come insomma avere un mirino sulla fronte. Parliamo di un altro giovane talento, un giovane talento che però si è tolto la vita ieri, lo stilista britannico Alexander McQueen. Ieri sera, neve permettendo, la seconda linea avrebbe dovuto sfilare a New York e il 9 marzo sarebbe stata la volta della prima linea durante la settimana del Prêt-à-Porter di Parigi. Nell'ottobre scorso la sua sfilata di donne mutanti in tacco 12 aveva lasciato tutti a bocca aperta. Ma Alexander McQueen, stilista inglese quarantenne, mancherà l'appuntamento perché ieri si è tolto la vita nella sua casa londinese. Considerato da tutti uno straordinario talento sia dal punto di vista sartoriale, figlio di un tassista, a 16 anni aveva fatto il ragazzo di bottega in Savile Row, sia da quello creativo, McQueen era stato scoperto nel 96 da Isabella Blow, mitica redattrice della rivista britannica Tatler, ed era diventato giovanissimo direttore creativo di Givenchy per poi creare il marchio che porta il suo nome, oggi controllato dal gruppo Gucci. Genio e sregolatezza, amico e compagno di notti forse un po' troppo trasgressive di Kate Moss e altre celebrities maledette, McQueen non si era mai ripreso dal suicidio della Blow, avvenuto 3 anni fa, anche se il colpo di grazia sarebbe stato la morte della madre di una settimana fa, che lo aveva spinto a chiudersi in casa rifiutando cibo e conforto di amici, collaboratori e fidanzato. Giulia Crivelli per GR24, il Sole 24 Ore. Le 13:17 minuti 38 secondi nella prima parte del giornale radio. Siamo tornati a parlare dell'inchiesta sulla protezione civile e del sondaggio che abbiamo fatto oggi sul nostro sito. Secondo i nostri ascoltatori, Bertolaso non si deve dimettere. Abbiamo parlato di altri due casi di presunta corruzione, uno che arriva da Milano e riguarda un consigliere comunale, un altro che riguarda il presidente della provincia di Vercelli, e poi abbiamo parlato di giovani talenti in fuga. Secondo quel che risulta, la nostra trasmissione in onda domani alle 15, che si intitola Giovani Talenti, appunto, oltre 30.000 italiani tra i 20 e i 40 anni hanno lasciato il paese tra il 2000 e il 2010. Abbiamo parlato anche della morte di Alexander McQueen. Ora ci occupiamo di maltempo. Mentre le agenzie diffondono una brutta notizia che arriva dal Veneto, perché le squadre del soccorso alpino della Val Comerico stanno cercando uno sci alpinista travolto da una valanga in Val Visdende, in realtà la neve ha colpito soprattutto zone del paese che non erano così abituate, a partire dalla capitale, Roma. Sentiamo. Svegliarsi, aprire la finestra della propria stanza e accorgersi che le strade, le auto e i motorini in sosta sono tutti ricoperti di neve. Una normale giornata d'inverno in molte città del nord Italia, ma non a Roma. Qui non nevicava da anni e molti non avevano nemmeno mai visto la capitale imbiancata. Sinceramente non l'avevo mai vista. Ho 26 anni e non mi ricordo che abbia mai nevicato. I mezzi spargisale sono entrati in azione nel corso della notte, ma non hanno potuto evitare la paralisi del traffico in molti quartieri cittadini. Preoccupati gli automobilisti e non solo per il traffico. Io con la macchina, sono qua da loro con la macchina, ogni discesa stavano a lungo. Medesima preoccupazione anche per chi è in partenza. Per me non è, diciamo, una bella notizia perché devo partire, ho l'aereo per Barcellona, ho paura che ci siano intoppi, quindi spero che vada tutto bene. E se Ciampino è rimasto chiuso per qualche ora, all'aeroporto di Fiumicino i voli sono ancora regolari. Savino Gallo, GR24, il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono difficoltà anche in Sardegna. Ci colleghiamo in diretta con Roberta Secci per avere dettagli sulla situazione. Roberta. Sì, buongiorno. Stamattina qualche fiocco di neve si è visto anche a Cagliari, è una cosa che non accadeva da una ventina d'anni. Sassari si è svegliata sotto qualche centimetro di neve e soprattutto con il ghiaccio che ha provocato incidenti di lieve entità. A Pordotorres invece la neve è caduta proprio in riva al mare. I disagi maggiori però si segnalano nel centro Sardegna, dove nevica da ieri sera. E problemi sono segnalati sulle principali strade della Sardegna, compresa la strada statale 131 Cagliari-Sassari, dove il traffico è rallentato da Basanta, nell'Oristanese, in poi, verso nord. Mezzi spazzaneve e spargisale hanno consentito la viabilità nelle strade provinciali del Nuorese e anche sulla statale che collega Nuoro alla Nusei, ma nell'isola, dove queste condizioni sono tutt'altro che usuali, è emergenza. Le autorità invitano a mettersi in macchina muniti di catene e solo se indispensabile. A Nuoro, in particolare, il sindaco ha chiuso le scuole oggi e domani, vista la difficoltà di insegnanti e personale ausiliario di raggiungere gli istituti a causa del ghiaccio e della neve. Le temperature anche in pianura restano vicine allo zero e la situazione, secondo le previsioni, non migliorerà fino a domattina. Da Cagliari è tutto, vi restituisco la linea. E grazie Roberta Secci, vedremo che cosa succederà dunque nelle prossime ore in Sardegna anche su questo fronte. Ci occupiamo di economia adesso con i dati diffusi questa mattina dall'Istat. Era nelle previsioni, la crisi economica ha avuto infatti lo scorso anno i suoi effetti più rilevanti, ma certo i numeri messi nero su bianco dall'Istat fanno una certa impressione, anche perché per quanto riguarda la crescita del nostro paese sono i peggiori dal 71. L'Italia ha chiuso di fatto il 2009 con un prodotto interno lordo in calo del 4,9% sul 2008, non lontano da quanto previsto dal ministero guidato da Tremonti, che indicava un PIL a meno 4,8% a fine anno. Segno negativo anche per l'ultimo trimestre, con il PIL corretto per gli effetti del calendario e destagionalizzato in flessione dello 0,2 rispetto al trimestre precedente, del 2,8 rispetto al quarto trimestre del 2008. La diminuzione congiunturale del PIL è il risultato di una contrazione del valore aggiunto dell'industria, di una sostanziale stazionarietà dei servizi e di un aumento di quello dell'agricoltura. A livello europeo l'Italia è l'unico paese dei tre grandi dell'eurozona con crescita economica negativa. In Germania infatti il PIL è risultato pari a zero, mentre in Francia è salito dello 0,6%. Vincenzo Miglietta, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Adesso parliamo di quel che ha detto il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sull'Unità d'Italia questa mattina. Il racconto di questa mattinata da Maria Chiara Grandis, che ha seguito delle celebrazioni al Quirinale. Che celebrazioni erano e che cosa ha detto il Presidente, Maria Chiara? Sì, buongiorno. È intervenuto all'Accademia dei Lincei il Presidente della Repubblica in occasione dell'avvicinarsi del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Nel suo discorso il Capo dello Stato è... l'eco che suscitano i rumorosi detrattori dell'unità della Repubblica, che Napolitano chiama un vincolo nazionale, augurandosi che ci si liberi da spettri e faziosità meschine per guardare all'orizzonte più largo del futuro della nazione. Dopo aver toccato le tappe dell'unificazione, come la firma della Carta Costituzionale, l'istituzione delle regioni autonome, il Capo dello Stato ha parlato delle sfide che attendono oggi il Paese, prima fra tutte l'unificazione anche economica fra Nord e Sud. E a questo proposito allora sentiamo le sue parole. L'affrontare nei suoi termini attuali la questione meridionale non è solo il maggiore dei doveri della collettività nazionale per avere essa fatto della trasformazione e dello sviluppo del Mezzogiorno una delle missioni fondative dello Stato unitario, ma è anche un impellente interesse comune perché è lì una condizione e insieme un'occasione essenziale per garantire all'Italia un più alto ritmo di sviluppo e livello di competitività. Un accenno al fenomeno dell'immigrazione, passando per l'esperienza francese e statunitense, un pensiero all'Europa unita, poi Giorgio Napolitano cita alcune delle nuove fratture della nazione, come quella ricomposta fra Stato e Chiesa. Sono iniziate oggi con le parole del Capo dello Stato le celebrazioni per i 150 anni dell'Unità, ha detto il Presidente dell'Accademia dei Lincei, Lamberto Maffei, che ha aggiunto che non è un caso se la neve questa mattina ha imbiancato anche i tetti della capitale. Da Roma è tutto, linea a voi. E grazie Maria Chiara Grandis anche a te per questi aggiornamenti. Noi ci spostiamo all'estero. È ancora scontro tra Cina e Stati Uniti sulla visita del Dalai Lama. Non si è fatta attendere la reazione di Pechino alla notizia che Barack Obama incontrerà il Dalai Lama il 18 febbraio prossimo, ed è una reazione rabbiosa. Chiediamo agli Stati Uniti di ritornare immediatamente sui loro passi e annullare questo incontro, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Ma Zhaoqiu, ed evitare così ulteriori danni alle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Da quando il leader leader religioso tibetano andò in esilio in India nel 1959, la propaganda cinese non ha mai cessato di accusarlo di essere la testa di un movimento separatista, accuse che si infiammarono nell'aprile del 2008 allo scoppio di una nuova rivolta in Tibet. Anche se la reazione di Pechino a qualsiasi viaggio del Dalai Lama sembra ormai quasi un atto dovuto, l'incontro con Obama rischia di abbassare ulteriormente la temperatura delle relazioni sino-americane, già messe a dura prova nelle ultime settimane dalla vendita di armi statunitensi all'isola di Taiwan, che i cinesi rivendicano come parte integrante del proprio territorio, dalle polemiche sull'apprezzamento dello yuan e dalle accuse di spionaggio lanciate dal colosso americano Google. Antonio Talia, GR24, Il Sole 24 Ore, Pechino. E ora parliamo di un bene sequestrato in un'operazione antimafia che diventa un luogo di aggregazione culturale. Succede in questi giorni in Puglia. Si chiamava MoMA, si trova ad Adelfia, vicino a Bari, ed era fino a 3 anni fa una discoteca, nota nella mappa del divertimento notturno della Puglia, ma anche una copertura per attività illegali. A seguito di un'operazione antimafia, la discoteca è stata sequestrata. Ora lo Stato, per la prima volta nel caso di un sequestro e non di una confisca, ha concesso la gestione del locale. Il teatro Kismet Opera creerà un laboratorio di pratiche artistiche, un servizio per la comunità, in collaborazione con l'Associazione Libera. Si chiamerà MoMART, motore meridiano delle arti. Il direttore artistico Roberto Ricco. Da una parte sarà un centro culturale, uno spazio dedicato alle attività che sono rivolte alla comunità di Adelfia, per esempio un giornale, un caffè, una postazione internet, però anche organizzare e fare attività per le associazioni di volontariato, dare spazio ad alcuni, ai giovani, ai gruppi giovanili. L'altra parte più ambiziosa del progetto nasce anche dalla consapevolezza che, essendo un luogo sequestrato, quindi ancora soggetto agli esiti dei processi, abbiamo pensato a un progetto per il quale non fosse necessario avere un luogo, uno spazio, e costruire coordinamenti, reti di giovani realtà artistiche, culturali, creative pugliesi. Non solo artisti però, ma anche organizzatori, curatori, critici, tecnici, cioè tutti coloro che in qualche maniera sono la base, come dire, produttiva anche di questo sistema. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. In chiusura lo sport, si alza il sipario sulle Olimpiadi Invernali di Vancouver. Oggi le prime medaglie in palio nel salto con gli sci, più tardi alle 3 della notte italiana la cerimonia inaugurale. A Vancouver piove o al massimo nevischia, le temperature non sono polari e i camion continuano a trasportare neve sulle piste olimpiche. Ma che ci sia neve o no, per la cerimonia di inaugurazione non ha alcuna importanza. Per la prima volta, infatti, le Olimpiadi verranno aperte al chiuso. La direzione artistica è ancora una volta di David Atkins, l'uomo che illuminò a giorno la baia di Sydney nel 2000 e curò la fantasmagorica apertura dei giochi asiatici di Doha nel 2006. Per Vancouver, però, il Canada ha voluto un po' meno grandeur e un po' più di attenzione all'ambiente e alle diversità. E così poveri e disagiati sono stati coinvolti nei preparativi, immigrati e nativi americani saliranno sul palco da protagonisti e poi stop agli sprechi e tanta, tanta energia verde. L'orgoglio nazionale dovrebbe sublimarsi in Wayne Gretzky, la leggenda indiscussa dell'hockey canadese che sarà probabilmente l'ultimo tedoforo, colui cioè che accenderà la fiamma di Olimpia. Un mondo, una fiamma. Canta per le Olimpiadi l'altro super canadese, Bryan Adams. Laura Bettini, GR24, Il Sole 24 Ore. Le 13:28 minuti e 20 secondi termina così questa edizione di GR24, condotta e curata da Simone Spezia, coordinata da Maria Piera Cerice, con in regia Fabio Cantadori. Prossimo giornale radio alle 14. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.